Italia in controluce. Oggi è il 28 dicembre, narrare, raccontare la cronaca. Questa è Italia in controluce con due edizioni, 6.30, 13.30, condotte da Daniele Biacchessi. La prima storia di oggi ci porta a Palermo, tra le nuove raffinerie di droga della mafia. Monica Ceravolo. Da 30 anni a Palermo non si vedeva una cosa del genere, una raffineria di droga in piena regola e per di più all'interno di un edificio risultato confiscato. Dentro le quattro mura di una villetta alla periferia della città sono stati trovati 3 kg di sostanze stupefacenti tra cocaina, marijuana e hashish, ma soprattutto sono state scoperte altre apparentemente innocue sostanze che la dicono lunga su quello che si faceva là dentro, come spiega Stefano Sorrentino, il dirigente della Narcotici della squadra mobile di Palermo. C'erano due tavoli su cui era stata creata una vera e propria raffineria, seppur artigianale. Parlo di raffineria perché sono state rinvenute una serie di sostanze chimiche classificate come precursori della formazione di sostanze stupefacenti, soprattutto per quanto concerne la cocaina, permanganato di potassio, soda caustica, etere, solventi vari, tutte sostanze quindi che servono non tanto per il taglio della droga stessa quanto proprio per la lavorazione, la raffinazione. I maggiori paesi produttori della cocaina e della pasta di coca in generale sono i paesi sudamericani, quindi è possibile che ci sia chiaramente nell'ambito delle tratte del traffico di droga anche un movimento non soltanto di cocaina cloridrato, quindi del prodotto già finito, ma anche di una pasta basica che poi venga successivamente lavorata in Europa. Questa sì che è una novità. Da decenni infatti a Palermo era stata abbandonata la strada della raffinazione perché pericolosa. Una condanna per traffico di droga pesa di più in tribunale dell'associazione mafiosa. Sono stati altri i canali seguiti. La droga è stata importata bella e fatta e poi distribuita sul territorio sempre sotto il controllo di Cosa Nostra, che non ha mai rinunciato al business degli stupefacenti. Per quanto concerne la mia esperienza, io mi sento di escludere quasi categoricamente che una situazione del genere possa essere gestita senza che ci sia quantomeno il placet da parte di chi controlla criminalmente il territorio in questione. Negli ultimissimi anni, dopo i violenti colpi inferti alla criminalità organizzata locale, è possibile che la mafia, per rimettersi in gioco a causa anche dei minori introiti che ormai le arrivano grazie al racket delle estorsioni, dell'usura e via dicendo, possa aver ripreso in considerazione l'ipotesi di gettarsi di nuovo nell'ambito del traffico di stupefacenti. Almeno un collegamento tra la mafia e questa vicenda c'è. Questa villetta, dentro la quale sono state trovate le sostanze per la raffinazione, è stata teatro di un famoso summit di mafia, finito con una sparatoria. Se quei muri potessero parlare, racconterebbero che il 17 ottobre del 1981, nel villino di Ciaculli, riconducibile al boss Stefano Bontate, era in corso una riunione con i capi mafia di quell'epoca. Dentro la villa c'erano una dozzina di persone. Gli agenti che da giorni sorvegliavano la casa bussarono alla porta. Silenzio, bussarono di nuovo e si scatenò l'inferno. Almeno in 7 uscirono, armi in pugno, e iniziarono a sparare nel tentativo di aprirsi un varco. I poliziotti risposero al fuoco, ne seguì un conflitto durato almeno 15 minuti, stando alle testimonianze dei vicini di casa. A terra rimasero più di 250 bossoli e un ferito. Non servì a fare fuggire tutti i partecipanti al summit. In 7 furono arrestati. Erano Ruggero Vernengo, Benedetto Capizzi, Pietro Loiacono, Salvatore Profeta, Giovan Battista Pullara, Pietro Fascella, Giuseppe Gambino, tutti uomini che alcuni anni e processi dopo sarebbero stati riconosciuti come boss di peso. L'inchiesta venne seguita da un magistrato, il giudice istruttore Giovanni Falcone. La villa venne sequestrata prima, confiscata poi, avrebbe dovuto essere assegnata, invece è stata dimenticata. Peccato che i muri non possono parlare. La seconda invece è una storia di avatar, ma di avatar particolari. Cristina Carpinelli. C'è una bottega alla periferia di Firenze. Vi lavorano 6 mastri orologiai, gli Zoppini. Il più vecchio ha 70 anni, ma ne dimostra 30 perché ascolta con attenzione il nipote di 37 e capisce quando è ora di lasciare che sia il giovane a tracciare la strada. Alessandro, si chiama così il più giovane, sente che bisogna andare su Second Life a vendere gli orologi e apre un negozio virtuale e poi fonda un'isola che si chiama Firenze. Gli avatar che si muovono nella seconda vita sono tanti e Alessandro li incontrerà nel 2007 in carne e ossa al Festival della Creatività di Firenze. È lì che viene folgorato da un'idea. registrare il marchio Avatar. È il primo passo di una storia incredibile. Grazie proprio all'incontro che ho avuto tramite la regione di Firenze al Festival della Creatività, mi sono accorto appunto che c'era un mondo di avatar, era pieno di persone che avevano un alter ego e praticamente si chiamavano tutti avatar. Da lì, parlandone in azienda con mio zio e con gli altri familiari, abbiamo detto: ma scusa, ma perché non creiamo anche noi una linea e guardiamo se è libero questo marchio? Ci siamo andati a informare, era libero ed ecco come è nato il tutto. E quindi avete registrato il marchio, avete speso sì. 30.000 euro. L'abbiamo registrato in 28 paesi più gli Stati Uniti, quindi non ci siamo limitati all'Italia, ecco come mai magari all'inizio l'investimento è stato un po' più corposo, però ci abbiamo creduto insomma fin dall'inizio. Poi però una volta che è uscito il film e abbiamo saputo anche che è una trilogia, da lì invece si sono aperti nuovi scenari, tra i quali anche quello del co-marketing che abbiamo creato direttamente con la 20th Century Fox. Praticamente si è creato un accordo fra noi e loro che noi, pubblicizzando e sponsorizzando proprio Avatar di James Cameron, possiamo riprodurre le immagini del film sia sulla maglietta che sull'orologio. E loro? E loro, noi di conseguenza gli facciamo comunque la pubblicità, perché mettiamo Avatar di James Cameron. Questo è il co-marketing che si è creato. Però loro, diciamo, di pubblicità non ne avrebbero tantissimo bisogno, visto che comunque è un film che ha... Però l'hanno accettato, e quindi alla fine benvenga per noi sempre. È difficile immaginare che un colosso come la 20th Century Fox debba prendere ordini da questa famiglia di fiorentini, ma è così. Lo dice la legge. Gli Zoppini hanno registrato 3 anni fa il marchio Avatar e oggi è la 20th Century Fox che li contatta, fa la valigia, arriva in Italia e chiede, scendendo a importanti patti, l'utilizzo del nome. La differenza in questa storia l'ha fatta Marco Zoppini, 70 anni, che è stato il primo a dire sì all'idea di Alessandro. È stato il signor Marco a contrattare con gli americani della Fox senza farsi intimidire e tenendo alta la bandiera di un made in Italy tipicamente fiorentino, che fatica per colpa della crisi, ma che non molla quando crede che l'idea sia buona. Ecco, gli anni ci sono, però sono molto, ecco, mentalmente piacciono tutte queste cose, queste tecnologiche, queste novità. Quando uno ne passano tante davanti, no, di cose nella vita, e poi bisogna cercare di vedere se queste cose si prestano per essere anche commercializzate. È uscito al 5 di maggio il DVD del film. Ecco, per fare, diciamo, il lancio di questo c'è stata un'operazione di co-marketing con loro, con la Fox, dove c'era anche la nostra pubblicità. Torniamo oggi su Radio 24 alle 13:30 per la seconda edizione di Italia in Controluce.